America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Mr. Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, my fellow Americans. Tonight marks the eighth year that I've come here to report on the State of the Union. Beh, devo dire, il momento è sempre emozionante, atmosfera solenne, maggioranza e opposizione insieme a Washington, in Parlamento, il presidente invitato alla Camera nella saggia divisione dei poteri americani e l'avvio tradizionale. Mr. Speaker, vicepresidente, membri del Congresso, miei cari amici americani, questa sera segna l'ottavo anno in cui vengo a riferirvi sullo Stato dell'Unione e per questa occasione cercherò di essere un po' più breve. Beh, in realtà proprio brevissimo Obama non lo è stato, alla fine il discorso è durato quasi un'ora, 660 persone in aula, c'era un rifugiato siriano, un ex clandestino, una veterana barbona, il protagonista della legalizzazione delle nozze gay, ma anche una sedia vuota per ricordare le vittime della violenza delle armi da fuoco. È stato, ce lo aspettavamo questo, è stato un discorso di speranza, è stato un discorso di ottimismo, due degli elementi che, ha detto Obama, ci contraddistinguono rispetto ai cittadini degli altri paesi del mondo. Un discorso non sulle cose da fare immediatamente nei prossimi mesi, ma sul futuro. Non c'era una lista della spesa, c'era uno sguardo d'insieme sui prossimi 10-15 anni, un discorso, devo dire, che forse vuole essere più un testamento politico per il dopo. Sentiamo cosa ha detto Obama del futuro. We live in a time of extraordinary change. Change that's reshaping the way we live, the way we work, our planet, our place in the world. Viviamo in tempi di straordinari cambiamenti che ridisegnano il mondo in cui viviamo, in cui lavoriamo, che ci piaccia o no. Il passo di questo cambiamento potrà soltanto accelerare. Il progresso è inevitabile ed è il risultato di scelte che dobbiamo fare insieme. Ecco, Obama poi ha affrontato numerosissimi temi, alcuni in modo molto succinto, però ha respinto anche molte critiche, soprattutto sull'economia. Ha parlato della necessità di cambiare il sistema, non solo un politico o l'altro politico, ma di smetterla con la polarizzazione. E sentiamo, perché è stato, devo dire, molto divertente e interessante, l'attacco a Trump, perché quello di Obama è stato soprattutto un discorso politico, un attacco a Trump con una citazione di Papa Francesco. His Holiness Pope Francis told this body, from the very spot that I'm standing on tonight, that to imitate the hatred and violence of tyrants and murderers is the best way to take their place. Ecco, qui Obama dice: imitare l'odio e la violenza dei tiranni e degli assassini è il modo migliore per prendere il loro posto. Quando i politici insultano i musulmani, questo non ci rende più sicuri, è solamente sbagliato, ci sminuisce agli occhi del mondo e rende più difficile raggiungere i nostri obiettivi, tradisce quello che siamo come paese. Ecco, devo dire, un attacco molto duro a Trump, condiviso peraltro da molti repubblicani. Poi un momento emozionante quando Obama ha chiesto a Joe Biden, che ha perso il figlio Beau per cancro, Joe Biden vicepresidente naturalmente, e gli ha chiesto di guidare una task force contro la malattia. Applauso a scena aperta, uno dei pochi momenti di grande unità, un applauso sentito da tutti. Ecco, vorrei sottolineare che secondo me questo discorso è stato soprattutto elettorale. Obama ha indirettamente e direttamente attaccato, come vi ho detto poco fa parlando di Trump, i bigotti e i bulli, non solo Trump, anche Ted Cruz, naturalmente, che non rappresentano, secondo lui, lo spirito vero di apertura, di inclusione dell'America. Per il terrorismo, beh, non è una vera minaccia per l'America, ha ripetuto Obama, come disse subito dopo San Bernardino, l'attentato di San Bernardino, li schiacceremo. Ecco, ci sono stati tre elementi esterni che hanno però disturbato subito prima del discorso, e cioè, uno, Hillary Clinton da ieri sera, perché abbiamo avuto un sondaggio ieri sera, in difficoltà contro Bernie Sanders, che è un democratico della sinistra, però pessimista come i repubblicani di destra sull'America di Obama. Gli iraniani hanno catturato ieri 10 marinai e 2 battelli americani, io credo che li rilasceranno, ma quando Obama ha poi solo citato l'accordo per il nucleare iraniano, criticato peraltro da molti, come sappiamo, senza menzionare i marinai, devo dire, in aula c'era un certo imbarazzo. Terzo incomodo, la risposta repubblicana, una delle migliori degli ultimi anni, è stata affidata a Nikki Haley, che è una donna, governatore della Carolina del Sud, moderata, elegante, anche lei contro Trump, tra l'altro, intelligente, bella, ed è spuntato improvvisamente un temibile candidato ideale per la vicepresidenza nel ticket repubblicano. Ecco, un Obama intelligente, eloquente, come sempre, ma forse, come dire, troppo lontano dai sentimenti e dalla pancia del paese per potersi proporre davvero come broker politico alle prossime elezioni. Ma sentiamo il gran finale. That's the America I know. That's the country we love. Clear-eyed, big-hearted, undaunted by challenge, optimistic that unarmed truth and unconditional love will have the final word. That's what makes me so hopeful about our future. Questa è l'America che conosco, dice Obama, il paese che abbiamo, un paese dal cuore grande, e per questo io sono qui fiducioso e dico che lo stato della nostra unione è forte. The state of our union is strong. Thank you. God bless you. Ecco, vediamo una considerazione d'insieme, perché secondo me ieri notte Obama ha parlato soprattutto per la storia, con questo messaggio di fondo di ottimismo, di razionalità, parlando a un paese che invece resta agitato sul fronte della sicurezza e per le evidenti difficoltà della classe media, poteva non essere in perfetta sintonia. È vero, l'economia va bene, c'è da essere ottimisti, l'America uscita dalla recessione ha creato occupati per 70 mesi consecutivi, ha ridotto drasticamente un disavanzo pubblico che sembrava irrecuperabile, ma questo risultato è intrinseco alla natura americana, che è predisposta sul piano sistemico alla reazione, alla duttilità, al rimboccarsi le maniche per guardare al domani. Sul fronte della politica estera invece Obama, devo dire, affidandosi alla razionalità, devo dire anche a un suo insospettato sentimento un po' WASP, i WASP, i White Anglo-Saxon Protestant. Perché WASP? Perché privilegia in modo quasi ossessivo, devo dire, l'understatement sull'emotività, oppure la scelta giusta, assolutamente in buona fede, contro quella opportuna. Ecco, secondo me, parlando in questo modo, ha commesso un po' gli stessi errori, come capitò, come vi dicevo prima, con il discorso sulla strage di San Bernardino, una strage compiuta da terroristi islamici. Ecco, con quel discorso, secondo me, aprì degli spazi di politica interna ai repubblicani. In questo caso, invece, in politica estera, in qualche modo è inevitabilmente ha danneggiato il paese e non solo il suo partito, perché a partire dal discorso del Cairo si sono diramate poi le primavere arabe, l'abbandono di governanti sicuramente amici degli americani, criticabili per carità, come Hosni Mubarak, però dei punti di riferimento dal punto di vista del realismo. C'è stato il voltafaccia all'Arabia Saudita, la mano tesa nei primi giorni nel rapporto con la Cina, che poi ne ha approfittato, il discorso appunto di San Bernardino, gli errori commessi in Siria, nel rapporto con Vladimir Putin, insomma tutto questo si riconduce secondo me a una stessa radice. Per Obama c'è una cosa giusta da fare e la fa. Ieri sera ce lo ha confermato. Dopo aver investito per anni, vuole lasciare per la storia l'immagine di un presidente buono, con un limite. Per definizione, i presidenti, i leader, non devono essere mai troppo buoni, perché alla fine, nell'esame dei risultati concreti, la storia non sarà clemente. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. La dedico ovviamente a Barack Obama e ho scelto Kendrick Lamar. Perché? Perché è la canzone How Much a Dollar Cost preferita di Obama nel 2000. E quindi c'è una canzone che parla di quanto sia importante aiutare il prossimo, e racconta di un incontro tra un ricco e un barbone al quale viene rifiutato un dollaro, ma il barbone è Dio, che a sua volta rifiuta un posto in paradiso al ricco. Quanto può costare un dollaro? Kendrick Lamar. How much a dollar it really costs. The question is detrimental, paralyzed in my thoughts. Parasites in my stomach keep me with a gut feeling, y'all. Gotta see how I'm chilling once I park this luxury car. Hopping out, feeling big as Mutombo. 20 on pump six, Tony Marcellus called me Dumbo. 20 years ago, can't forget. Now I can lend them my ear or two. How to stack these residuals tenfold. The liberal concept that men do. 20 on six, he didn't hear me. Indigenous African only spoke Zulu. My American tongue was leery. Walked out the gas station, a homeless man with a sandy tan complexion asked me for 10 grand. Stressing about dry land, deep water, powder blue skies that crack open. A piece of crack that he wanted. I knew he was smoking, he begged and pleaded. Asked me to feed him twice, I didn't believe it. Told him beat it. Contributed money just for his pipe, I couldn't see it. He said, my son, temptation is one thing that I've defeated. Listen to me, I want a single bill from you. Nothing less, nothing more. I told him I didn't have it, then closed my door. Tell me how much a dollar cost. Staring at me, I grabbed my key. Staring at me, I started the car, then I tried to leave. But something told me to keep it in park until I could see the reason why he was mad at a stranger. Like I was supposed to save him. Like I'm the reason he homeless and asking me for a favor. He's staring at me, his eyes follow me with no laser. He's staring at me, I noticed that his stare is contagious. Cause now I'm staring back at him, feeling some type of disrespect. If I could throw a bat at him, he'd be aiming at his neck. I never understood someone begging for goods, asking for handouts, taking it if they could. At this particular person just had it down pack, staring at me for the longest until he finally asked, have you ever opened up Exodus 14? A humble man is all that we ever need. Tell me how much a dollar cost. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.